mi hai preso e lasciato come un animale. E la luce della luna di notte si consuma e mi lascia viaggiare oltre il mare all'orizzonte, è persa fra le onde la mia speranza di un amore vero e puro. Mi hai addomesticato come un animale, o mi hai preso e lasciato come un animale. Mi hai addomesticato come un animale, poi mi hai preso e lasciato come un animale.